the chick. See, I need chick. The she's part of makes me tick. Mama, hey, yeah, yeah, yeah. Clickety click, I stick chick. Hey, yeah. Hey, yeah. The hot heels on for the baby blues. The very first time, man oh man, yeah. It was a night. Yeah. Yeah. Everybody stopped on a dime to look. Yeah. Yeah. Even my heart, my heart got a shook. Yeah. Yeah. Yeah. She's my clickety click, I'll stitch it. Yeah. Yeah. She's Miss Rhythm, she's Miss Rhyme. Oh man, she is mine. I said, oh, I gotta stitch it. She, it's a neat trick. Well, see what I make me tick. Mama, yeah, yeah, yeah. Clickety click, a stick chick. Yeah, yeah. Yeah, don't yeah, you yeah. know she's a stick? Yeah, yeah. Mama, yeah, yeah. I stick yeah, yeah. a chick. Yeah, yeah. Ah, yeah. Chick. Yeah, yeah. Mama, yeah, yeah, yeah. Clickety click, I'll stick chick. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. I gotta yeah, click yeah. a little chick. Yeah, yeah. I don't yeah, you know she's slick. Yeah, yeah. No. È mezzanotte. È l'ora dei vampiri. È l'ora di Dracula! No, no! Dracula, Dracula, dra... Vampiro dal nero mantello, di notte tu succhi nel collo le donne di giovane età. Dracula, Dracula, dra... coi bianchi affilati canini, tu fai spaventare i bambini, le mamme, le nonne, i papà. Non far più lo spiritoso, qualcuno può arrabbiarsi e darti pure uno schiaffone. Il tuo morso contagioso potrebbe far venire un'infezione. Dracula, Dracula, dra. Sei forte, sei nero, sei bello. Perché non ti succhi un bel pollo e lasci le donne campar? Di notte tu succhi nel collo le donne di giovane età. Dracula, Dracula, dra. Coi bianchi affilati canini, tu fai spaventare i bambini, le mamme, le nonne, i papà. Non far più lo spiritoso, qualcuno può arrabbiarsi e darti pure uno schiaffone. Il tuo morso contagioso potrebbe far venire un'infezione. Dracula, Dracula, dra. Sei forte, sei nero, sei bello. Perché non ti succhi un bel pollo e lasci le donne campar? Dracula? Dracula? Oh, signor Dracula. Cia, cia, cia. Slick Chick, Radio Wombat, come sempre di mercoledì, quest'oggi mercoledì 1 novembre, come avrete intuito da questa scherzosa e divertente introduzione, oggi parliamo di vampiri, perché ci facciamo prendere la mano da Halloween, i santi morti, tutte queste cose qui. Non ci ho mai capito bene molto di come si avvicendavano, prima i morti, poi i santi, prima sono santi, poi sono morti, non ci capisco molto bene. Comunque diciamo che sì, tempi horror, e come a questo punto possiamo dire, ne parlavamo ieri con Notodate, che è passato un anno, perché effettivamente l'anno scorso, qualcuno forse se lo ricorderà, ci trovavamo sia io qui a Slick Chick sia a Notodate a 8 Hertz a parlarvi di Halloween, di mostri e di cose orrorifiche. Lui aveva fatto una puntata dedicata proprio ad Halloween in generale, se ben mi ricordo, e io invece l'avevo dedicata alle streghe. E proseguiamo questa tradizione, almeno io, perché quest'oggi parliamo appunto di vampiri. Non tema abbastanza banale, mi rendo conto, ma spero di riuscire a sviscerarlo in maniera un po' più, un po' meno banale, appunto, un po' meno consueta. Abbiamo iniziato con Bruno Martino, appunto, Dracula cia cia cia, un pezzone, e pezzo tra l'altro tratto da I tempi duri per i vampiri, che è un film del 1959 diretto da Steno, dal regista Steno, e non quello Steno che pensate, no, The Nabat, dai, Steno. E si tratta di una parodia di film dei vampiri che al tempo andavano abbastanza in voga, ma poi vedremo, non solo in quegli anni lì. La musica del film, appunto, è opera di Renato Rascel e Armando Travaglioli. Sui titoli di coda viene eseguita questa canzone che avete appena ascoltato, Dracula cia cia cia, in realtà però nella versione di Rascel, che sì, ebbe un buon successo, ma ancor di più ebbe quella di Marini, ma più ancora quella di Bruno Martino, che poi è quella che abbiamo ascoltato. Tra l'altro, così a un passant ve lo dico giusto per gossip, il figlio di Bruno Martino, Walter Martino, era uno dei membri dei Goblin, che poi, come saprete, hanno fatto colonne musiche anche loro di film altrettanto, forse ben di più, orrorifici. Ma veniamo al tema di questa settimana, che è appunto i vampiri. C'ho una voce un po' così, è colpa, come direbbe Bruno Martino, del fatto che ho fatto la spiritosa ieri al concerto, la serata Rockabilly Horror al Next Emerson, e sì, è andata così. Quindi mi beccate con questa vocetta un po' così fioca. Ma i vampiri, appunto, l'esatta etimologia del termine vampiro, già solo quella non è molto chiara. In realtà ci sono varie teorie, varie tesi, ma è ragionevole pensare che possa derivare dal serbo croato vampir, e poi successivamente passata a varie altre lingue, tramandata a varie altre lingue, tra cui il tedesco vampir, il francese vampire e l'inglese vampire. Tra l'altro, la prima apparizione del termine nel vocabolario nell'Oxford English Dictionary in inglese, appunto, risale al 1734, e poi successivamente ancora all'italiano vampiro. Un'altra teoria, meno accreditata, sostiene che il termine slavo derivi anch'esso da un'altra lingua, da quella turca, ubir, penso si dica così, hubir, boh, chissà, che comunque significa strega. Il russo antico, tra l'altro, invece, il vampiro è detto upir, quindi, insomma, più o meno siamo sempre qui. Ha ha! Vi ricordo i nostri contatti, il sito wombat.noblogs.org e in particolare anche la casella di posta postawombat@insiberia.net. Ormai dovreste saperli a memoria questi contatti, ma magari invece avete scoperto il Wombat da poco e quindi è bene che ve li ricordi. Questi erano i Voodoo Dolls con Vampireville. L'album era Problems with Girls del 1986. Questo Voodoo Dolls è un trio psychobilly svedese, in realtà anche abbastanza conosciuto. Ma torniamo ai vampiri. Secondo le credenze slave di cui parlavamo prima, appunto, forse probabilmente i primi a coniare il termine vampiro, e quindi forse deriva un po' tutto da lì, da quelle terre. Secondo le credenze slave vi era una netta distinzione tra corpo e anima. L'anima era immortale e alla morte del corpo avrebbe vagato per 40 anni prima di trovare pace nell'oltretomba eterno. Quindi, ad esempio, alla morte di un parente veniva lasciata una finestra aperta di modo che l'anima potesse entrare e uscire un po' come gli pareva. Si credeva che durante questo periodo, quindi, l'anima avesse la capacità però anche di poter, oltre che svolazzare dalla finestra, anche entrare nel corpo del defunto stesso. Ma non solo di quel defunto, anche in altri, diciamo. Così come per i demoni, Anche le anime potevano avere un effetto quindi sia positivo che negativo a seconda della loro natura. Quindi se venivi riposseduto da un'anima cattiva erano guai, se invece era un'anima benevola, vabbè, tira via. La morte di un bambino non battezzato, una morte violenta o prematura, la morte di un grave peccatore come uno stregone o un assassino, oppure anche una sepoltura non appropriata, erano tutte cause di impurità dell'anima, cioè quello che rendeva l'anima grigia, nera, brutta, cattiva. Un'anima impura era quindi molto temuta dagli slavi perché era potenzialmente vendicativa. Da queste credenze riguardo a tutta questa cosa, a tutto questo gioco di entra e esci dell'anima, deriva quindi il concetto slavo di vampiro. Un vampiro è la manifestazione di uno spirito impuro, quindi, che sta possedendo un corpo in decomposizione. Questa creatura che ne viene fuori, non morta, evidentemente, è vendicativa e gelosa nei confronti dei vivi, da cui succhia il sangue per sopravvivere. Questo è un po' il come la pensavano gli slavi. Ma altre culture poi hanno invece, vedremo, ce ne sono veramente tantissime, io vi dico solo quelle principali, hanno affrontato il tema del vampiro. Evidentemente è un qualcosa di molto viscerale a cui l'essere umano sente una certa affezione. Ad esempio i greci, tra i greci il brucolaco, oppure bruculacas, dal greco comunque brucolacas, è un vampiro anch'esso, appunto, che fa parte un po' della tradizione folclorica. Secondo la tradizione, i brucolachi sono persone maledette a causa della loro vita immorale oppure per una scomunica. Vedremo che non sono gli unici a pensarla così. Oppure anche per essere stati seppelliti in terra sconsacrata o per aver mangiato, attenzione, la carne di una pecora uccisa da un lupo mannaro. Beh, immagino che questi siano casi un po' minori, forse le altre erano più frequenti, chissà. Il loro corpo quindi non si decompone dopo la morte, ma la pelle diventa coriacea e tesa fino a essere in grado di risuonare come quella di un tamburo. Infestano i cimiteri di notte, cioè stanno essenzialmente nel cimitero, ma si possono anche incontrare sui campi e nelle strade a mezzogiorno. Emettono urla spaventose, ma attenzione, soltanto una volta per notte, quindi alla fine poi dormite lo stesso. Possono essere uccisi esclusivamente di sabato, che è l'unico giorno, attenzione, in cui queste creature rimangono nella loro tomba. E possono essere uccise in diversi modi, che includono lo smembramento, la decapitazione e l'incenerimento del corpo, cose che poi, insomma, come ben saprete, si ritrovano anche nei secoli a venire. Poi non solo i greci e gli slavi parlavano di vampiri, ma anche i romani, gli antichi romani. La strige, anche detta mormos, in latino strix, nelle leggende appunto dell'antica Roma, era un uccello notturno di cattivo auspicio che si nutriva di sangue e carne umana, come peraltro oggi è addebitato al vampiro. A differenza del vampiro, però, non era ritenuta un cadavere rianimato in qualche modo, ma un prodotto di una metamorfosi. Trattandosi di uccelli, avevano, cioè queste strigie avevano un becco lungo e dorato, che era simile a quello del colibrì, per capirsi, che usavano per succhiare il sangue dei bambini, loro preda preferita. E avevano anche le ali, ovviamente, essendo uccelli, e solitamente con delle piume rosso-porpora. Però in realtà, al contrario degli altri uccelli, avevano quattro zampe, quindi insomma avevano sei arti, diciamo. Le zampe erano fatte da artiglio, nere come il carbone, occhi gialli e rotondi senza pupilla. Ci ascoltiamo adesso dalla colonna sonora di Dracula, Philip Glass e Kronos Quartet. Praticamente questo pezzo fa parte delle musiche composte nel 1999 da Philip Glass, appunto, e il Kronos Quartet, per sonorizzare il film Dracula del 1931, film muto ovviamente, di cui peraltro parleremo ampiamente dopo. Quindi, nonostante sia difficile dare un'unica definitiva descrizione del vampiro del folklore mondiale, vi sono in realtà poi, come vedremo, alcuni elementi che sono comuni un po' a tutte le leggende europee, o quantomeno a molte di esse. I vampiri erano generalmente descritti come gonfi, con una carnagione scura o sanguigna, e ciò veniva attribuito spesso alla nutrizione a base di sangue. Il vampiro nella sua tomba tendeva a perdere sangue dalla bocca e dal naso, quindi si riconosceva da questo, mentre il suo occhio sinistro rimaneva spesso aperto. Veniva seppellito rivestito con un telo di lino e i suoi denti, capelli e unghie continuavano a crescere dopo la morte. Beh, anche perché non era veramente morto, evidentemente. Le zanne, i famosi canini di sopra, tramandati finora, perlomeno con cui si raffigura negli ultimi decenni il vampiro, in realtà non facevano parte delle caratteristiche principali del vampiro. Una delle prime testimonianze di attività di vampiri risale al 1672 nella regione dell'Istria, al confine tra Austria e Repubblica Veneta, quella che poi oggi è la Croazia. Cronache locali dell'epoca citano il vampiro Jure Granado del villaggio di Kring, vicino a Tinjan, la fantasia, come si pronuncerà, come la causa del panico tra i paesani. Grando, questo Jure Grando, era un ex bracciante che morì nel 1656. Vedremo che gran parte dei protagonisti delle storie dei vampiri, cioè quelli che venivano accusati di vampirismo, appartenevano al mondo rurale, o comunque sia tutte le storie ambientate che appunto avevano a che fare con i vampiri essenzialmente si svolgevano in ambienti rurali, poi vedremo anche forse il perché. Questo Jure Grando, appunto, il primo vampiro di cui si ha notizia, morì nel 1656, ma i paesani del posto dichiararono che fosse tornato dal mondo dei morti, avesse iniziato a bere sangue umano e che molestasse le donne del villaggio. Il capo del villaggio a quel punto ordinò che gli si piantasse un bel paletto nel cuore, ma il metodo non funzionò, perlomeno sembrava non bastasse, e allora il corpo di Grando venne decapitato. Evidentemente con più successo. Durante il XVIII secolo vi fu un impeto frenetico di avvistamenti di vampiri nell'Europa dell'Est, con frequenti rituali che comprendevano essenzialmente impalare o di seppellire un corpo. E tutti questi rituali erano volti essenzialmente a individuare potenziali vampiri. E partecipavano tra l'altro anche ufficiali del governo, cioè non era una storia che facevano soltanto i poveri contadini ingenui, ecco, non vedetela così. Come peraltro, insomma, avvenne anche per la stregoneria, tutti erano, facevano parte di questa allegra fobia di massa. La credenza nei vampiri aumentò drasticamente, creando appunto quella che poi venne chiamata un po' un'isteria di massa in tutta l'Europa. Il panico nacque, pare, con la notizia di attacchi di vampiri nella Prussia occidentale nel 1721 e nella monarchia di Habsburg più o meno negli anni seguenti, dal 1725 al 34. Da lì in poi si diffuse un po' in altre località vicine. Due casi famosi di vampirismo, che poi furono quelli ufficialmente verbalizzati, perché il primo di cui abbiamo parlato non venne riportato, ma non nei verbali ufficiali. E i due casi primi a essere verbalizzati furono quelli dei cadaveri dei serbi Peter Plogojovic e Arnold Paule. I due incidenti furono documentati molto bene e questi ufficiali governativi arrivarono, esaminarono i cadaveri, fecero rapporto e pubblicarono libri in tutta Europa. Da lì in poi vi potete ben immaginare panico, delirio. E questo panico collettivo comunemente viene chiamato come la controversia sui vampiri del XVIII secolo e infuriò per un'intera generazione. Nonostante molti studiosi dichiarassero che i vampiri non esistevano, erano tutte invenzioni e più o meno davano delle attribuzioni per spiegare questa fobia a sepolture premature, cosa che sembra strano, ma al tempo evidentemente era abbastanza diffuso e non si sapeva bene capire quando un morto era morto davvero. C'erano alcuni casi evidentemente abbastanza frequenti in cui una persona veniva sepolta troppo presto, era quando era ancora viva. Oppure anche un'altra causa era la rabbia, la malattia della rabbia, che aveva dei sintomi simili a quelli che poi venivano attribuiti ai vampiri. Insomma, in realtà, nonostante queste cause che alcuni studiosi spingevano, nonostante ciò la superstizione e tutto il cancan legato a questi casi di vampirismo aumentò. Don Augustin Calmet, un rispettabilissimo studioso e teologo ovviamente francese, compose un esauriente saggio nel 1746 in cui però rimase ambiguo circa l'esistenza dei vampiri. Calmet essenzialmente raccolse testimonianze di incidenti riguardanti i vampiri e li mise tutti insieme senza trarne una vera lezione, ma rimanendo appunto un po' ambiguo. Numerosi lettori, tra cui fra l'altro Voltaire, interpretarono il saggio come una dichiarazione di esistenza dei vampiri. E ad esempio Voltaire nel suo dizionario filosofico ha incluso la voce vampiri e scrive: questi vampiri erano cadaveri che uscivano dalle loro tombe la notte per succhiare il sangue dei vivi, sia dalle loro gole che dai loro stomaci, e poi tornavano nei loro cimiteri. Le persone a cui succhiarono il sangue si indebolivano, divenivano pallide e iniziavano a consumarsi, mentre i cadaveri che succhiavano il sangue prendevano peso, la loro carnagione si faceva rosea e godevano di grande appetito. La controversia cessò soltanto quando l'imperatrice Maria Teresa d'Austria mandò il suo medico personale, Gerard van Swieten, a investigare sulle acclamazioni di entità vampiresche. Il medico personale dell'imperatrice d'Austria concluse che i vampiri non esistevano. E quindi a quel punto l'imperatrice, che si fidava evidentemente, approvò una legge che proibiva l'apertura e la profanazione delle tombe e dei cadaveri, ponendo fine a quella che veniva chiamata la controversia. In realtà, appunto, c'era stato un bel casino prima di questa fine, perché insomma molti uomini e donne furono uccisi in maniera, fra l'altro, veramente macabra, perché accusati di essere vampiri. E peraltro anche dopo il mito sopravvisse e rimase ancora, perché insomma evidentemente abbiamo visto una credenza con delle radici così storiche, è difficile da estirpare, non basta certo una legge di una imperatrice a caso, e quindi la cosa continuò e vedremo, continua anche fino a oggi in qualche modo. Ora basta e ci ascoltiamo, giusto per prendere un po' di fiato, almeno io che ne ho bisogno, Jason Van Wissem, The Taste of Blood, tratto dalla colonna musica di Only Lovers Left Alive, ovvero il film di Jim Jarmusch, di cui abbiamo parlato già nella puntata dedicata appunto a questo regista, che vi ricordo, se non l'avete visto, guardatelo assolutamente, Only Lovers Left Alive, perché è veramente veramente bello, parla ovviamente di vampiri. E tra l'altro, secondo me, anche Van Wissem stesso un po' vampiro è. Ma se non l'avete visto, andate a vedervi le foto o andatelo a sentire quando tornerà in Italia a suonare, a breve probabilmente. Thank you. fils de Satan. Arrière, arrière. Au nom de la Sainte Trinité, du Dieu le Père, arrière. Retournez dans la solitude glacée de vos cercueils. Retournez danser le train qui bombe. Le vampire Dracubop sono dei parigini del giro psycho rockabilly. Questo era un brano tratto dall'album Dracubop, appunto, del 1985. L'aristocratico conte Dracula, perché ci dovevamo arrivare. In realtà i vampiri, e in particolare appunto poi quando si parlerà del conte Dracula, poi lì si apre proprio un mondo. Comunque l'aristocratico conte Dracula solo nel suo castello, fatta eccezione di alcuni servitori pazzi, che appare solo di notte per nutrirsi dei suoi paesani, è un po' il simbolo, almeno in molti l'hanno visto così, come il simbolo del parassitico Ancien Régime. E tra l'altro nel film Nosferatu, il principe della notte di Herzog, che citeremo poi anche dopo, il giovane agente immobiliare protagonista del film diventa vampiro lui stesso, portando il capitalismo borghese a essere la nuova classe parassita. E questa è un'interpretazione che non è recente, e comunque non è Herzog l'unico a averci pensato, diciamo. Già Voltaire aveva notato questa cosa, riportando nella voce vampiri di cui abbiamo letto un pezzo all'inizio, la voce vampiri del dizionario filosofico nel 1764, in mezzo a questa voce indicava che la fine del XVIII secolo aveva coinciso con l'indebolimento della credenza folclorica nel vampiro come creatura magica, ma tutto ciò non aveva, anzi, cioè, c'era stato un indebolimento, ma non c'era stata la fine dello sfruttamento del parassitismo sociale, che erano da considerare invece alla base di quella credenza. Quindi ci sono, dice Voltaire, adesso i finanzieri, i faccendieri, gli uomini d'affari che succhiano il sangue del popolo in pieno giorno, ma non sono morti, anche se corrotti. Questi parassiti non vivono in cimiteri, ma in confortevoli palazzi. Questo diceva Voltaire, e non era l'unico, insomma, che faceva il parallelo tra vampiri e un parassitismo economico e di classe. Col passare del tempo, alcune caratteristiche non presenti nel folklore originale invece sono state incorporate nel profilo del vampiro, per poi arrivare a quello che è il profilo che abbiamo adesso. I canini appuntiti apparvero per la prima volta nel XIX secolo con i denti sporgenti di Varney il vampiro e anche del conte Dracula. E la paura della luce del giorno venne introdotta invece con il vampiro Nosferatu di Murnau del 1922, e il mantello apparve invece in alcune produzioni teatrali degli anni 20 del XX secolo E c'era appunto il classico mantello col collare bianco, eccetera. L'immortalità invece è attribuita fin dall'inizio nel folklore, anche se non sempre in modo esplicito, però insomma diciamo che questa ce la siamo portata sempre un po' ovunque. Ora ci ascoltiamo i Meteors, boh, chissà, io l'ho sempre visti scritti e non l'ho mai sentiti pronunciare. Comunque, My Daddy is a Vampire, l'album è Meteor Madness del 1981, sono degli inglesi glorie dell'ondata psychobilly degli anni 80 e insieme ai Cramps e agli altri sono tra i primi che hanno rallentato un po' il rockabilly, ci hanno mischiato l'horror, la fantascienza, un po' di psichedelia e ne hanno tirato fuori lo psychobilly. Daddy works the night shift. He lies in bed all day. He never looks in mirrors, and he avoids the sun's rays. But if you peel away the bandage, the blood comes seeping through. Monsters all around me. I'm a suicidal geek. Il prossimo brano che ci ascoltiamo è dei Lightning Bolt. E Lightning Bolt è un duo di due Brian, si chiamano entrambi Brian, Brian Chippendale che è alla batteria e alla voce e Brian Gibson al basso chitarra. sono un duo di Providence in Rhode Island e hanno, le sentirete, hanno un suono direi particolare, e però hanno varie particolarità anche su come suonano proprio, non soltanto poi sul risultato. Il batterista cantante, ad esempio, al posto dell'asse del microfono, cioè già il fatto che suona la batteria e canta insieme per me è una specie di miracolo, io non so, penso sia un dio. Ma oltretutto, al posto dell'asta e del microfono, come fanno le persone normali, lui usa il microfono di una cornetta del telefono, che non so se l'avete mai visto, se a parte magari qualcuno di voi non ha manco mai visto una cornetta del telefono, ma qui mi intristisco. Ma se trovate una cornetta del telefono, provate a aprirla, dentro c'è un microfono, insomma è quell'aggeggino lì, piccolino, che viene, appunto lui lo tiene in bocca oppure lo attacca a un uncino. Al microfono, poi dal suono del microfono aggiunge vari ulteriori effetti, per cui poi il risultato lo sentirete abbastanza bizzarro. Per la batteria invece pare che utilizzi un KM di 8021 per i nerd della musica in ascolto, Drum Exciter, che poi di fatto è un modulo di sintetizzatore di batteria azionato dalla gran cassa. E quindi oltre a suonare la batteria, che comunque insomma, gliene dà a secche, c'ha anche in più questo sintetizzatore che aggiunge. Brian Gibson invece, tanto per non essere da meno, suona il basso accordato come un violoncello a intervalli di quinta, quindi usando una corda di banjo per il la alto. E ha usato questa accordatura a quattro corde, pare, per diversi anni, ma invece di recente sembra che abbia usato un'altra accordatura a cinque corde, questa volta do, sol, re, la, mi, con corde di banjo per il la e per il mi. Quindi insomma una cosa un po' strana, però molto figa secondo me, insomma, cioè un basso che poi suona metà come un banjo. I Lightning Bolt, oltre a essere fighissimi, quindi ve li dovevo far ascoltare, ci servono per introdurre uno dei più celebri vampiri, il Signore della Notte, e come si potrebbe chiamare? Dai, c'ha mille nomi, comunque il Conte Dracula. Conte Dracula compare per la prima volta nel romanzo di Bram Stoker del 1897, all'inizio del quale accoglie il giovane avvocato Jonathan Harker nel suo castello per compilare i documenti necessari all'acquisto di alcune proprietà sparse in varie zone di Londra, e si dimostra affabile, cordiale, educato come qualsiasi conte che si rispetti. Col passare dei giorni Dracula tiene Harker in uno stato di prigionia nel suo castello, e l'avvocato, in un crescendo allucinato di orrori e agghiaccianti rivelazioni, scoprirà la sua spaventosa identità. Bram Stoker si è sicuramente ispirato alla famigerata figura di un personaggio storico quattrocentesco realmente esistito, che è Vlad Tepes, Vlad Tepes III. Vladislav III di Valacchia, Ajak, ma cioè io sto dicendo i nomi a caso, perdonatemi. Nato nel 1431 e morto, si dice morto chissà, nel 1476 o 1477, poi vedremo, insomma già non si capisce niente della sua morte, quindi insomma poi da lì ci credo che poi nascono le leggende. Meglio conosciuto solo come Vlad, meglio anche perché poi il resto dei nomi è impronunciabile, figlio del Voivoda di Valacchia e membro dell'Ordine del Drago, fondato questo ordine per proteggere il cristianesimo nell'Europa orientale. Vlad II Dracul, anche altro nome, fu membro della Casa dei Draculesti, un ramo collaterale della Casa di Basarab, e conosciuto anche col suo nome patronimico Dracula. We'll be right back. Lightning Bolt, questa era Dracula Mountain, l'album Wonderful Rainbow del 2003. Ma torniamo al nostro Vlad, noto anche appunto come Vlad Tepes, in rumeno vuol dire Vlad l'impalatore, fu 3 volte voivoda di Valacchia, come si diceva, rispettivamente nel 1448 e poi dal 1456 al 1462 e infine nel 1476. Il soprannome l'impalatore, abbastanza evidente, deriva dalla sua predilezione ad impalare i nemici. Durante la sua vita la reputazione di essere un uomo crudele e sanguinario si diffuse nel Sacro Romano Impero e più in generale in tutta l'Europa. Vlad III è peraltro venerato invece come eroe popolare in Romania, così come in altre parti d'Europa, per aver protetto la popolazione rumena sia a sud che a nord del Danubio. La data esatta della sua morte è sconosciuta, come dicevamo all'inizio, ma è provato che egli morì prima del 10 gennaio del 1477. L'ubicazione però esatta della sua salma è anch'essa sconosciuta, ma si tratti di un luogo lungo la strada tra Bucarest e Giurgiu. Anche le circostanze esatte della sua morte sono avvolte nel mistero. Secondo alcuni studiosi venne ucciso per sbaglio perché scambiato per un turco, il che sarebbe veramente, veramente una fine particolare, ecco, uno scherzetto del destino. Secondo altri invece venne ucciso dagli ottomani durante una battaglia più classica. Altri invece, attenzione, sostengono che sarebbe stato morso da un pipistrello. Vabbè. In ogni caso, la sua testa pare sia stata tagliata ed inviata insieme alla sua spada a Costantinopoli come trofeo di guerra. E vennero fatti ovviamente degli studi archeologici sul sito e nel 1933 questi studi portarono alla scoperta che la presunta tomba di Vlad è completamente vuota. Ebbene sì. In un'altra tomba, invece, scoperta sempre nel monastero dove si pensava stesse il corpo, venne rinvenuto un corpo con indosso abiti sontuosi ed un anello con il simbolo del dragone. Però questo corpo c'ha la testa e quindi non dovrebbe essere il corpo di Vlad III. Ma attenzione, nel giugno del 2014 sono state avviate delle ricerche che sostengono che esista una cappella funeraria dedicata a Vlad nella chiesa di Santa Maria la Nova nella città di Napoli, più precisamente nel chiostro piccolo del complesso conventuale risalente al XVI secolo. Quindi insomma con i secoli potremmo non essere lontani. In effetti in questa chiesa c'è un monumento funebre che è adornato da un rilievo raffigurato un drago affiancato da dei baldacchini che sembrano essere considerati elementi tipici della cultura medievale slava. Inoltre è presente sempre lì un epitaffio che reca delle iscrizioni in una lingua che al momento è sconosciuta. Ci sono dei caratteri degli alfabeti latino, copti, greci, etiopi e però di fatto non ci sono prove sufficienti per assicurarsi, poter assicurare che lì ci sia stato o sepolto o che sia stato sepolto in quel luogo appunto Vlad, il nostro Vlad. Però siccome esistono delle prove concrete che Vlad morì in battaglia, perlomeno comunque ben lontano da Napoli, il fatto che Vlad sia poi fuggito e morto a Napoli sembrerebbe abbastanza impossibile. Però chissà, magari invece Vlad si trova a Napoli. Thank you. fictional character. Don't vote, don't pay taxes. I live not in America, but under. I get a lot of shit for free. Aboriginal and never mean. I'm not proud or ashamed of the damage that we leave in our wake. So we propagate, sown tornadoes for their own sake. Then vector of and create others. Some become very good, some barely start. Anyway, we never meet. I myself avoid. It takes a living out the miserable for life. Fictional characters give up. That is why we stir up trouble. It's the water which we live and breathe. That's the water in which reality drowns. It takes a limitless optimism for life. Erano The World Inferno Francis Society con Dr. Dracula, Who Makes You Get High, e l'album era The Speckett Funeral del 2014. Fra l'altro i World Inferno Francis Society tutti gli anni organizzano un Halloween memorabile a New York. Vi consiglio di guardare i video delle registrazioni su YouTube perché sono veramente fighissime, mi piacerebbe un sacco andarci. E adesso passiamo dopo Dracula a un'altra vecchia conoscenza di noi amanti dei vampiri, ovvero Nosferatu. Nosferatu il vampiro è un film muto diretto da Murnau e proiettato da Friedrich Wilhelm Murnau e proiettato per la prima volta il 5 marzo del 1922. E vabbè, è un po' il capolavoro, almeno viene considerato il capolavoro di Murnau, ed è peraltro uno dei, direi appunto, capolavori anche del cinema horror tutto, ma anche del cinema espressionista. Ma io di cinema so il giusto, e comunque sì, adesso abbiamo la nuova trasmissione Coming Song, e quindi chissà, magari una volta vi parleranno loro approfonditamente di cinema dedicato ai vampiri, anche perché ce n'è veramente 2000 di film da vedere e non si finirebbe più. Dovrei fare un ciclo di 20 puntate di Slick Chick solo per parlare dei film, ma non è questo il caso. Però, insomma, la cosa interessante è che Nosferatu è ispirato liberamente al romanzo di Bram Stoker, di cui abbiamo parlato prima, di Dracula, e Murnau dovette modificare il titolo e anche i nomi dei personaggi. Ad esempio, il conte Dracula diventa il conte Orlok, e anche i luoghi, non a Londra ma a Wisborg. E li modificò per problemi legati ai diritti d'autore, ai diritti legali dell'opera, meravigliosi, importantissimi e fondamentali diritti d'autore che tanti guai hanno dato sempre nella storia dell'uomo. Il regista fu comunque lo stesso, peraltro, denunciato dagli eredi di Stoker, quindi perse la causa per violazione di diritto d'autore e venne condannato a distruggere tutte le copie della pellicola. Cioè, ennesimo esempio, se ce ne fosse bisogno, di quanto stupido è il copyright e chi lo segue. Tuttavia, per fortuna, una copia clandestina fu salvata dallo stesso Murnau e il film è potuto sopravvivere e arrivare ai giorni nostri. Perché, insomma, ci sarebbero girati un po' i coglioni se per questa cazzata non avessimo potuto vedere Nosferatu, no? Vi pare? Almeno a me sì. Intorno alla figura del conte Orlok, però, attenzione, interpretato da Max Schreck, aleggiano molte strane leggende. Secondo alcuni, sotto il trucco mostruoso del conte Orlok, in realtà non c'era Max Schreck, ma lo stesso Murnau, irriconoscibile. Invece altri sostengono che Murnau si sia recato nei Carpazi per cercare un vero vampiro e che questo vero vampiro sia l'interprete del film, anche perché, insomma, effettivamente è spaventoso, se avete presente di cosa stiamo parlando. Le strane leggende sono state alimentate nel tempo anche a causa della curiosa coincidenza legata al significato del nome Max Schreck, cioè il nome dell'attore, che in tedesco suona come Massimo Spavento. In realtà, effettivamente la coincidenza c'è ed è abbastanza curiosa, e tra l'altro Murnau palesemente ci ha un po' giocato, ma l'ipotesi che Schreck poi fosse effettivamente lui l'attore a interpretare Nosferatu pare essere confermata perché lo stesso Schreck era protagonista di pièce minori in teatro, dove poi nelle foto d'epoca si vede lui sorridente, ma di fatto piuttosto somigliante al conte Orlok, quindi a Nosferatu, quindi, insomma, di fatto probabilmente era lui e non altri. Alla storia della lavorazione di questo film è dedicato poi una pellicola del 2000 del regista Merhige, che è intitolato L'ombra del vampiro, dove tra l'altro Murnau è interpretato da John Malkovich e Schreck da Willem Dafoe. E nella visione fornita al film si cavalca l'ipotesi che Max Schreck fosse un vero e proprio vampiro, quindi, insomma, si fa proprio un mix di tutte queste teorie. Tra l'altro, invece, nel 1979, come si diceva all'inizio, Herzog ne trasse l'ispirazione per Nosferatu, il principe della notte, con Klaus Kinski, ispirato appunto a questo film e non al libro al libro Dracula, insomma, di Bram Stoker. Ci ascoltiamo a questo punto, per raccontarci di Nosferatu, gli Slint con Nosferatu Man da Spiderland del 1991, pubblicato per la Touch and Go Records. We'll be right back. I don't believe it's as important as you seem to think it is. Excuse me, Count Dracula, Professor Van Helsing. Van Helsing, a most distinguished scientist whose name we know, even in the wild of Transylvania. I had a frightful dream a few nights ago, and I don't seem to be able to get it out of my mind. I hope you haven't taken my stories too seriously. Stories? Yes. In my humble effort to amuse your fiancée, Mr. Harker, I was telling her some rather grim tales of my far-off country. I can imagine. Why, John? I can quite understand Mr. Harker's concern. I'm afraid it's quite serious. My dear, I'm sure Count Dracula will excuse you. You must go to your room, as Professor Van Helsing suggests. Oh, but really, Father, I'm feeling quite well. You had better do as your father advises. Very well. Good night, John. Thank you. Beh, li avrete riconosciuti, spero, i Bauhaus con Bela Lugosi's Dead, ovviamente, brano del 1979 che è stato registrato dal vivo in studio in un unico take, peraltro, insomma, robetta. Bela Lugosi's Dead, tra l'altro, finì sul grande schermo perché faceva parte della colonna musica del film Miriam si sveglia a mezzanotte, The Hunger, forse ve lo ricorderete, un film veramente figo con un David Bowie bellissimo e che c'era poi, non mi ricordo chi altro, c'era forse anche Susan Sarandon, sì, giovanissima, e Catherine Deneuve ovviamente, insomma, filmone, se non ve lo ricordate andatevelo a rivedere, The Hunger. Tradotto Miriam si sveglia a mezzanotte per ragioni misteriose. E quel film si apre con una performance dei Bauhaus che suonano appunto Bela Lugosi's Dead in un locale dove sì, poi mille accenni, mille frecciate, mille riferimenti con il cantante dei Bauhaus praticamente identico a Bowie, insomma, omaggi su omaggi. Bela Lugosi. Bela Lugosi, nome d'arte di Bela Ferenc Zazoblasko, boh, chissà, nato nel 1882 ed è stato un attore cinematografico ungherese. È rimasto, direi che c'è un po', è difficile non dare per scontato tutto quello che ormai si sa di Bela Lugosi, più che altro è celebre per le interpretazioni nei film horror, ma tra l'altro in realtà si sa un po' meno, fondò il sindacato degli attori nel suo paese e fu parte attiva della sinistra. Dopo la caduta del primo regime comunista, quindi tra marzo e agosto del 1919, si trasferì prima in Germania e poi negli Stati Uniti. Lì, di fatto, poi incontrò quello che diventò il personaggio della sua vita, ovvero il conte Dracula, che interpretò peraltro per diversi anni nei teatri, essenzialmente sia di Broadway che in giro. Nel 1931 però Lugosi venne scritturato dalla casa produttrice Universal Pictures, che al momento era specializzata in horror, per portare finalmente sullo schermo il personaggio di Dracula, che ancora non era stato portato sugli schermi. E ci finì con il film diretto da Todd Browning, e tra l'altro, così, tanto per buttarvela lì, in italiano, nella prima versione, Bela Lugosi è stato doppiato da Elio Pandolfi, il meraviglioso Elio Pandolfi. Questo film ebbe un successone che probabilmente neanche si aspettavano ed è ovviamente ormai un classico, ma soprattutto direi per l'interpretazione di Bela Lugosi, che era perfetto conte Dracula, elegantissimo, con questo sguardo ipnotico e questo accento che avete sentito peraltro nella clip che vi ho messo a precedere i Bauhaus, questo accento mitteleuropeo che insomma era affascinantissimo. E poi da lì in poi, dopo questo grande successo, dopo la metà degli anni 40, in realtà i ruoli disponibili un po' si diradarono, la moda per l'horror andò un po' a cadere e Bela Lugosi nel frattempo diventa morfinomane, così giusto per, e inizia a affrontare un rapido e triste declino. Nel 1948 torna di nuovo al personaggio di Dracula, però con il film Il cervello di Frankenstein, che era una parodia di fatto del genere horror, perché quello inizia a essere il periodo delle parodie, un periodo fra l'altro andato avanti per un bel po'. E poi addirittura nel cervello di Frankenstein, in questo film, era Bela Lugosi accanto ai comici Gianni e Pinotto, cioè io veramente il povero, poverissimo Bela Lugosi, che finaccia. E snobbato ovviamente ormai dalla critica, non apparve più sullo schermo fino al 52 in un'altra ennesima, peraltro abbastanza infelice, parodia di se stesso nel Bela Lugosi Meets a Brooklyn Gorilla del 1952 appunto. E come racconta, forse ve lo ricorderete, il film di Tim Burton, Ed Wood, verso la metà degli anni 50 Bela Lugosi ormai aveva abbastanza problemi di salute e anche perché si dice che la morfina non aiuta, e si trovava di fatto nelle peste anche da un punto di vista economico, e quindi tornò sullo schermo accettando di apparire in 3 pellicole di Ed Wood, e morì poi ad Hollywood il 16 agosto del 1956 per un attacco cardiaco. Fu sepolto all'Holy Cross Cemetery e, con indosso il mantello di Dracula, secondo le volontà della moglie e del figlio. E tra l'altro c'è un racconto nel Bela Lugosi, un libro pubblicato dalla Delphi, scritto da Edgardo Franzosini, c'è scritto che Lugosi finì per identificarsi con il più famoso, insomma con Dracula, con il suo personaggio più famoso, e si dice che morì pronunciando le parole: io sono il conte Dracula, io sono l'immortale. Trickers, Night of the Vampire del 1961, un gruppo strumentale londinese di cui non ci è rimasto molto, per la precisione ci sono rimasti 3-7 pollici, 6 pezzi in tutto, e questo è il primo che hanno inciso. Siamo in chiusura e vi lascio con un ultimo pezzo che è Dwight di Dwight Pullen, detto Whitey, con Sunglasses After Dark del 1958, perché come sapete tutti i vampiri odiano e temono il sole. Questo pezzo parla finalmente di noi, con la pelle bianchiccia, e quelli che tengono gli occhiali scuri anche quando viene sera, bianchicci, pallidi, con la faccia provata, e quelli che paiono usciti appena da una rissa o alzati dal letto 5 minuti prima, o entrambi le cose. Nenia, ovviamente questo pezzo è per te. Ci risentiamo mercoledì prossimo, sempre a Slick Chick, sempre su Wombat Radio. Ciao ciao. Well, I was strolling downtown. I Well, you really look sharp wearing sunglasses.